Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti cari gastronauti e radioascoltatori. Ebbene, questa mattina parleremo di stocco, stoccafisso, baccalà. Insomma, andremo anche a capire cosa significano questi nomi per identificare un prodotto che un tempo sicuramente era vincente, ma io credo che lo sia ancora e lo diventerà sempre di più. Era considerato un prodotto povero, ma in realtà la grande cucina lo ha grandemente riabilitato e poi sicuramente la qualità è cresciuta nel tempo. Bene, noi andremo a scoprire magari i trucchi per acquistarlo, per cucinarlo e anche così il perché di questi nomi diversi nelle varie regioni d'Italia. Bene, cominciamo questo, diciamo, questo giro, dopo avervi fornito il numero verde per intervenire, 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Io innanzitutto do il buongiorno a Pierantonio Concato. Buongiorno Concato, a Bassano buongiorno del Grappa. Buongiorno a lei, signor Paolino, a tutti gli ascoltatori. Bene, siamo nella bottega del Baccalà, un posto storico che poi, come ci spiegherà, è da oltre 30 anni e forse più in questo negozio di Bassano del Grappa si serve e si vende esclusivamente baccalà. Buongiorno anche a Francesca Dragotto, che è una ricercatrice del settore glottologia e linguistica dell'Università Tor Vergata di Roma. Cominciamo velocemente buongiorno. Da Francesca, buongiorno Dragotto, cominciamo buongiorno. Dalla Dragotto per chiedere, Dragotto, perché si chiama baccalà? Beh, su baccalà si sono spesi fiumi di inchiostro e ancora oggi non si è arrivati a un'interpretazione etimologica univoca, a differenza di quello che è accaduto per lo stoccafisso. Ecco, la fermo qui perché sicuramente poi interverranno anche i nostri radioascoltatori, poi lei potrà andare avanti, diciamo, nel svelare questo mistero di questo nome, anche di stoccafisso, e poi vedremo anche perché stocco e dove si chiama stocco. Allora, Pierantonio Concato, io sono sicuro che il suo negozio è pieno sempre alla mattina, io l'ho visto più volte, è sempre pieno di gente. Da quanti anni lei vende baccalà? Beh, allora, mio padre già dal 35 che ha il negozio. Io poi ho iniziato da giovane, dunque avevo 13 anni, sono circa 40, oltre 40 anni, 45 quasi. Ecco, ma è mai calato il consumo di baccalà nel suo negozio? Mai? No. Quindi no. Al di là delle crisi, diciamo? Sì, al di là della crisi, adesso io parlo del mio negozio, non è mai calata la vendita. In giro può darsi che ci sia stato un calo per via dei costi, ecco così, però non nel mio negozio. Senta, finora. Senta Concato, quanto costa un chilo di baccalà? Dunque, il baccalà secco, il ragno, cioè la migliore selezione, viene 50 euro il chilo, io lo vendo. Ecco, poi dopo vedremo perché in Veneto, diciamo, ci giochiamo il baccalà e poi è lo stoccafisso di altre parti, poi vedremo anche questo gioco di parole. Senta, lei ha una macchina speciale, una sua macchina che si è inventato per rendere al meglio il baccalà. Ci vuoi spiegare appunto come va servito il baccalà? Cioè... Sì, allora, sono da secco, viene passato sotto questa macchina, sono due rulli, e viene passato varie volte finché si sente in mano quando è ammorbidito e pronto per essere messo a bagno. Questo. Ecco, lei quanto lo stocca questo baccalà? Cioè, lei lo acquista, lo fa arrivare e poi lo tiene? E poi lo tengono in celle frigorifere attrezzate apposta con la temperatura e un'umidità costante, così si conserva bene fino all'inizio della prossima stagione, del prossimo arrivo. Quindi quando lei, diciamo, lo serve al suo cliente è già pronto per essere cucinato oppure deve... Sì. Dipende, perché c'è chi lo prende secco e se lo bagna a casa, c'è chi invece che lo vuole già pronto da cuocere, ecco, già bagnato. Quindi lei lo dà nelle due maniere, a seconda in della due richiesta. Maniere, sì. Senta una cosa, e lei ha una ricetta particolare, visto che vende da 40, oltre 40 anni il baccalà, lei lo mangia il baccalà innanzitutto? Certo, sempre. E come lo mangia? Sia la vicentina che insalata, cioè lessato. Insalata, cioè sarebbe appena fatto lessare, noi diciamo nel gergo nostro veneto fiorire, diciamo, sì. Quando ha fatto una bella schiuma sopra l'acqua, si spegne, si aspetta un 4-5 minuti che si riposi e poi è pronto per essere sgocciolato e essere condito, prezzemolo, aglio, olio, pepe, sale, lessato, che è semplicissimo. Bene, io ringrazio Pier Antonio Concato, lo ripeto, la bottega del baccalà a Bassano del Grappa vale la pena di una visita per vedere come questo signore, quale amore, quale passione mette nella sua così lavorazione del baccalà e nella sua vendita del baccalà. Grazie Pier Antonio e a presto, la ringrazio. Buonanotte, grazie. Grazie. Allora, voglio tornare a Francesca Dragotto, anzi abbiamo già Rita da Napoli, facciamo intervenire Rita da Napoli, una radioascoltatrice. Buongiorno Rita. Buongiorno. Io ho una curiosità, sono sposata con un greco, sì. E quando andiamo in Grecia c'è una piccola taverna nella periferia di Atene, nella zona di Pendeli, dove cucinano un baccalà squisito. Bene. Morbidissimo, ma è una schiuma, sembrava all'inizio, io pensavo fosse come il nostro baccalà fritto, dico, ma i cugini di mio marito mi hanno portato qua a mangiare il baccalà fritto, non è che, ma le assicuro che è una cosa eccezionale, è come mangiare spuma di baccalà fritto. Bene, il potrebbe essere, non lo danno, potrebbe io essere. Volevo sapere se qualche esperto qui mi potesse dire quale sarà questo segreto che viene così morbido come una spuma, non le so. Bene, dire. Potrebbe essere una spuma, guardi che c'è un produttore, cioè un distributore di pesci in Italia che fa un tiramisù con lo stoccafisso, quindi potrebbe essere anche questo, lo serve con la spuma con un'aggiunta di caffè, quindi potrebbe essere anche questa soluzione. Il gastronauta. Torniamo cari gastronauti al baccalà e allo stoccafisso. Ecco, io ho già ricevuto diverse email, però ricordo il numero verde 800 24 0024, SMS 349 238 6666. Allora Dragotto, ci svela il mistero? Sì, è un mistero lungo e affascinante, perché a differenza appunto, come dicevo poc'anzi, di quello che accade per lo stoccafisso, le cui innumerevoli forme possono essere chiarite, ne parleremo volendo tra poco, nel caso del baccalà c'è un vero mistero etimologico. Le prime fonti parlano del baccalà più o meno nella metà del XII secolo. La cosa che sorprende è un cambiamento della successione dei suoni che si registra invece intorno al 1500. In altre parole, all'inizio la forma non inizia con bac, ma con cab. Cab, cap, quindi un qualcosa che suona come cabil, una forma del genere, e questo sta alla base di una reinterpretazione che fa sì che si parli del baccalà anche come il pesce caputo, il pesce testone, perché il parlante vede in quel cab cap la forma latina caput capitis, che significa testa, quindi data la mole del pesce, che è un merluzzo, ricordiamolo. Esattamente, sì, tutte le fonti concordano, visto che c'è bisogno di capire qual è il rapporto linguistico tra baccalà e stoccafisso, tutte le fonti più o meno serie concordano nel dire il merluzzo si chiama così quando è vivo, una volta che è morto, se viene messo sotto sale in barile si chiama baccalà, se invece viene fissato sui bastoni si chiama stoccafisso, ma che ci sia del vero o che non ci sia del vero, sta di fatto che un ruolo fondamentale in questo, come in tantissime altre vicende etimologiche, è giocato dalla reinterpretazione del parlante, e quindi potrebbe proprio essere per un gioco di reinterpretazione del parlante che si viene a verificare questa metatesi, quindi questo scambio tra la successione cab e quella bac che sta alla base del moderno baccalà, probabilmente per la necessità di riaccostare questa parola che altrimenti sarebbe inspiegabile a una parola latina, la parola baculum, che significa bastone, bac, che è la base del nostro abbacchio, e quindi potremmo dire che se c'è un leitmotiv alla base di tutte quante le forme di baccalà e di stoccafisso, questo motivo conduttore consiste proprio nel fatto che il parlante, di fronte a una struttura che non sa capire, ha la necessità di spiegarla con parole che invece sono a lui molto più familiari. Bene, bene, questa è la prima parte, sicuramente così si scateneranno le interpretazioni, perché anche l'altra volta sulla parola hamburger abbiamo sentito interventi di anche personaggi tedeschi, slavi, e così, che hanno dato il loro apporto. Io ricordo il numero verde 800 24 00 24 e sentiamo Marco da Milano. Buongiorno Marco. Buongiorno. buongiorno, le chiedo un suggerimento di vini da abbinare col baccalà. Bene, durante la trasmissione sicuramente abbiamo un sommelier importante, chiederemo a lui, io poi la mia interpretazione, però sentiamo anche altri. Ora abbiamo con noi Matteo Pisciotta dell'osteria De Sas di Besozzo in provincia di Varese, il quale diciamo che nel suo menù molto spesso presenta dei piatti a base di baccalà. Allora, Matteo, è veramente facile così da interpretare il baccalà? Cioè, diciamo che anche la cucina d'avanguardia, come tu fai, ricorre spesso al baccalà? Innanzitutto buongiorno Davide. Sì, il baccalà viene utilizzato spesso perché ha una versatilità di utilizzo che è veramente, veramente particolare. È un pesce poliedrico a tutti gli effetti. Può essere lavorato a crudo, quindi appena marinato, con giusto un po' di profumo magari di limone o di lime che vada a contrastare la grande sapidità delle carni, può essere appena scottato, quindi mantenuto comunque il suo gusto primario con un filo di caramellizzazione attorno che dà quella forza in più al piatto, e può essere invece utilizzato in una cottura un pochettino più strutturata, un pochettino più lunga, come le cotture classiche della cucina regionale italiana. Ecco, cioè, diciamo che poi sentiremo appunto una cucina classica, andremo in Calabria, perché in Calabria c'è una grande tradizione. Matteo, si è parlato di spuma, di probabilmente questo piatto di questa signora che ha assaggiato ad Atene ha parlato di spuma di baccalà. È possibile, sì, secondo te? Tieni presente che il baccalà è uno di quei pesci che ha un forte timbro aromatico, quindi nel momento in cui viene lavorato con un qualcosa di liquido, che può essere nel caso di una spuma o di un gelato al baccalà una panna piuttosto che una crème fraîche francese, il gusto del baccalà passa alla parte liquida in maniera molto, molto, molto marcante. Poi da quel liquido si può arrivare a ottenere qualsiasi lavorazione. Bene, rimani con noi. Ora andiamo appunto in Calabria, andiamo alla Bottega dei Sapori di Mammola, in provincia di Reggio Calabria, dove in questo ristorante si fa un menù completo a base di stocco. Poi chiederemo a Francesca Dragotto se stocco è semplicemente un'abbreviazione o un qualcosa di dialettale. Buongiorno a Bruna Sanzalone. Buongiorno Bruna. Buongiorno, come va? Bene, grazie. Lei tutto bene? Sta preparando il baccalà? Sì, siamo ai fornelli. Ai fornelli. Ecco, voi fate un menù tutto a base di stocco. Ce lo vuole raccontare i vari, cioè, i piatti che lei presenta? Va bene, noi partiamo dagli antipasti, che sono praticamente partiamo dai nostri formaggi tipici, accompagnati dalle nostre marmellate di peperoncine, arancio e peperoncino. Poi abbiamo le fittelle di stocco, le polpettine, lo stocco con i fagioli. Diciamo stocco, però in realtà è pesce stocco. Ecco, pesce stocco, cosa intendete voi per pesce stocco? Che non è uguale al baccalà, insomma. Ecco. In sostanza è lo stesso pesce, però il pesce stocco è soltanto essiccato al sole, invece il baccalà è sotto sale. Beh, certo. Beh, stocco sta per stoccafisso, insomma, voi l'avete abbreviato, ma è lo stoccafisso. Poi, quello che da altre parti viene chiamato stoccafisso, insomma. Esatto. E niente, poi terminiamo con un tortino di stocco, a base di stocco sempre, e poi partiamo con i primi, che abbiamo i ravioli ripieni di pesce stocco, una pasta tradizionale che si usa qua da noi, la stroncatura di stocco. Stroncatura, sì, sì. Lo conosco bene. Lo conosce? Sì, la conosco, la stroncatura la conosco bene, sì. Beh, diciamo, spieghiamo che è una pasta in cui dentro ci sono diversi cereali che un tempo era proibita. Grano, insomma, un misto di farine, sì. che poi insomma la rende molto, si accompagna bene con il ragù di stocco. Certo. E poi abbiamo dei secondi sempre a base di pesce stocco, lo stocco con le patate e le olive e i peperoni, quelli che si essiccano al sole. Lo stocco arrosto e poi abbiamo una particolarità del nostro ristorante che sono gli involtini di stocco. Non mi dica che fate anche un dessert a base di stocco. No, ancora no, però ci stiamo lavorando, sa? Poi abbiamo tante specialità, abbiamo lo stocco ai funghi, stocco ai carciofi. Ma voi fate solo esclusivamente stocco nella vostra trattoria? Nella nostra trattoria sì. Benissimo. E avete dei clienti che tornano spesso? Non lo mangio, comunque lo accontentiamo anche. Avete dei clienti che tornano spesso? abbiamo sempre più o meno la stessa clientela, anche se c'è qualcuno ancora che non ci conosce, però insomma siamo sempre il completissimo. Bene, allora per gli appassionati di Stocco, la Bottega dei Sapori di Mammola in provincia di Reggio Calabria, grazie a Bruna Sanzalone. Bene, sentiamo il nostro radioascoltatore Alfredo da Vicenza, buongiorno. Buongiorno Davide, sono Alfredo Pell, ti ricordi? Sì, Alfredo, dimmi. Sì, dimmi, no, prego, prego. Stavo dicendo, sentivo adesso che parlavate di mammola e di dolci a base di stoccafisso. Io ho mangiato un gelato, insomma, vesuviano a base di stoccafisso. Beh, com'era, Alfredo? Allora. Alfredo Pelle è uno dei più grandi esperti, non solo di baccalà o di stoccafisso, ma sicuramente di gastronomia, quindi è un grande critico. Dicevi, hai mangiato questo gelato di... Di pesce stocca, insomma vesuviana. Ma l'hai mangiato? Alla fine ti vengono fuori delle squame sotto pelle, secondo me. Ah, ho capito, bene. Quindi è meglio lasciar perdere, tu dici? Madre natura ha fatto le cose, l'uomo ha fatto le cose che sono determinate. Andare alla ricerca di variabili così estreme. Possono essere dei divertissement, ma non sono dei... In termini gastronomici non possono essere importanti. Certo. Volevi dire qualcosa invece che ti ho deviato? Volevo dire che noi abbiamo, non solo perché Vicenza secondo me è patria di un piatto che porta il nome della città. Se tu ci rifletti Davide, in Italia i piatti che portano il nome della città non sono tanti. Se ci mettiamo a discutere saranno una ventina, una trentina. Voglio dire, fegato alla veneziana, cotoletta alla milanese... Bistecca alla fiorentina, baccalà alla vicentina è uno di quelli, che vuol dire che oramai è un piatto di tradizione talmente definito che le variabili non sono più accettate. Cioè il baccalà alla vicentina si fa sostanzialmente in un solo modo ed è secondo me un modo archetipo, molto molto vecchio, molto molto bello e che onora veramente il gusto di una città, eh. È una cosa, guarda, una poi cosa sentiremo, poi che non si diffonda in giro, voglio dire, ciascuno poi quando va a mangiare il pesce stocca la ghiotta giù a Messina diventa matto perché è di una bontà enorme, no? Però il piatto della vicentinità che non deve girare, perché ciascuno deve farsi i suoi piatti, secondo me è uno degli elementi caratterizzanti della varietà di questo nostro modo. Guarda Alfredo, fra poco avremo con noi il presidente del gruppo ristoratori Baccalà alla Vicentina, quindi faremo sicuramente un discorso che riguarda appunto il Baccalà alla Vicentina e la confraternita anche. Ti ringrazio dell'intervento, grazie Alfredo, grazie, a presto. Sentiamo Lele da Milano. Sì, buongiorno. Mi dica. Volevo dire, sono Lele da Milano e sono un appassionato di cucina lombarda e anche mitteleuropea, però vorrei fare un'eccezione per una volta e segnalare un piccolo tesoro romano. Il filettaro di Santa Barbara? Bravo, bravissimo. Queste due signore stupende che ricordano la sora Lella e fanno un filetto che è paradisiaco. Ecco, qualcosa che è un angolo di cultura e tradizione italiana. Bene, le amo anch'io. Grazie, grazie a Lele da Milano. Un'ultima battuta, Francesca Dragotto. Sì. Ma baccalà in italiano significa anche un'altra cosa. Forse deriva, viene il nome baccalà, diciamo l'appellativo baccalà, quando viene dato alle persone, deriva ovviamente dal pesce. Beh sì, da un uso metaforico, laddove ci si trova di fronte a una persona o estremamente alta e secca o una persona impalata, proprio per così dire, allora la similitudine scatta spontanea e quell'immagine di fissità, di immobilità viene accostata all'idea del baccalà che per l'appunto dopo l'essiccazione diventa inamovibile, quindi l'idea che c'è dietro agli usi metaforici è sempre quella legata alla possibilità di accostare un elemento, anche in questo caso completamente diverso perché animato, ad un qualcosa che rappresenta al sommo grado quella caratteristica. Bene, grazie a Francesca Dragotto, grazie della tua partecipazione, a presto. Il gastronauta. Stocco, stoccafisso, baccalà, eccoci di nuovo a parlare di questo affascinante argomento. Sentiamo subito Daniela dalla provincia di Verona. Buongiorno Daniela. Buongiorno a lei. Io vi ascolto sempre e la parte del baccalà me l'aspettavo. Ah beh. Io vorrei sapere come si fa ad ammorbidirlo quando si compra da secco, perché ho provato tanti modi. Di trattarlo, mi hanno detto bisogna batterlo, tenerlo a bagno un giorno, due giorni, cinque giorni, però non sono mai riuscita a ottenerlo come dico io. Beh, e come poi è quando si compra. Bene, vediamo di rispondere a questa suo quesito con Luca Monica. Luca Monica è un importatore di baccalà della Longina Cardinal. Buongiorno Luca. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Luca, innanzitutto, poi arriveremo anche a questa domanda di questa signora, però voglio chiederti, cioè tutti pensano che il baccalà o stoccafisso, insomma, poi abbiamo già visto quali sono le differenze, ma per semplicità le nomino sempre tutte e due, arrivi solamente dal nord dell'Europa, dall'Ofoten, dall'isola di Lofoten. Invece non è così, vero? Ci dai un po' così, come posso dire, la geografia di questo prodotto? No, beh, il prodotto arriva sicuramente oggi solo da quelle zone lì, una volta arrivava anche diciamo dall'altra parte dell'oceano, ma oramai, essendo un prodotto che comunque si pesca sempre meno, non è a rischio di estinzione ancora, però è sicuramente molto molto diminuita la quantità di pesce disponibile, arriva solo lì. Il concetto della Spagna e della penisola iberica in generale, e anche del Portogallo, è che viene da sempre lavorato lì, certo, addirittura. Ecco. La salatura sembra, perché poi chiaramente non sono notizie certe, i primi sembra siano stati baschi ad inventare il processo di salatura proprio iniziale, che si spingevano cercando le balene verso nord e imbattendosi in questi branchi veramente enormi di baccalà hanno cominciato da lì a salarlo, e soprattutto all'arte successiva della dissalatura. Perché un'altra cosa che a volte la gente non sa, che oltre chiaramente alla qualità iniziale, la dissalatura è veramente un passaggio essenziale per avere un prodotto di qualità finale, perché temperatura dell'acqua, periodo e spessore del pesce sono delle variabili veramente importantissime per determinare poi un prodotto di un certo tipo di qualità finale. Ecco, hai sentito la domanda della signora che non riesce ad ammorbidirlo? A questa domanda però io cederei volentieri la risposta al tuo prossimo interlocutore, però anche qua è una tecnica veramente importante, sia a livello di temperatura, di tempistica, al di là di batterlo, ma lasciarlo nell'acqua il tempo giusto. E ci sono anche delle variabili in base poi alla successiva ricetta, insomma, è veramente una cosa, è un'arte che fa parte proprio della gestione della ricetta in toto del pesce. Ecco, voglio fare una domanda a te, poi la farò anche a Matteo Pisciotto, che è ancora con noi, ma sento moltissimi cuochi, chef, che sostengono che il prodotto che arriva appunto lavorato in Spagna è migliore dell'altro. Beh, sicuramente c'è una tradizione oggi su questo prodotto storica di qualità. In Spagna questo tipo di prodotto ha sempre avuto, a differenza che in Italia, una collocazione molto alta, molto, molto importante. È un pesce che è sempre stato anche molto costoso al ristorante, per cui appunto anche il fatto, non so, che il prodotto venga prima sezionato e poi dissalato per dare ad ogni spessore di taglio un tempo diverso di dissalatura e una permanenza in acqua diversa, è testimonianza insomma della cura con cui in Spagna, soprattutto in Spagna nei Paesi Baschi intendo, le ricette originali, pensiamo al pilpil, pensiamo al baccalà bilbaina e tutto, sono veramente molto molto collocate nella tradizione. Le società gastronomiche di San Sebastian veramente nel frattempo facevano a gara per trovare nuove formule di ricette e tutto, per cui in Spagna c'è veramente una tradizione. E a differenza magari del Portogallo, dove il prodotto è assolutamente, come dire, usato in tutte le associazioni, anche in maniera popolare, anche non il gado smorua, che poi è quello di cui parliamo noi, ma anche tanti altri pesci simili, ma sicuramente non di questa qualità, in Spagna, tornando a loro, veramente il prodotto ha una collocazione molto molto alta, cioè una cosa nella giornata speciale, la ricetta speciale è spessissimo di baccalà. Bene, grazie a Luca Monica, ti ringrazio, a presto. Matteo Pisciotta, c'è differenza tra merluzzo e merluzzo? C'è differenza, sì, c'è differenza sostanziale anche tra baccalà e baccalà. Tra baccalà anche ammollato, cioè anche tra qualità di baccalà ammollati differenti, c'è qualità assolutamente differente. Adesso prima stavi parlando con il signor Monica, il baccalà del signor Monica è fenomenale, se andassi io in Spagna a comprarlo probabilmente non lo troverai uguale. Bene. E anche sapienza, ci vuole probabilmente sapienza anche di ricerca. Molta sapienza nella ricerca, certo. Bene, grazie a Matteo Pisciotta. Sentiamo Angelo dalla provincia, prego, di Bergamo. Buona giornata. Buongiorno Angelo. Buongiorno signore gastronauta, quello che è, insomma. Va guardi, bene. Io sono l'ultimo dei fratelli, eravamo 7 fratelli, 4 fratelli e 3 sorelle, e i miei fratelli maggiori subito nel dopoguerra andavano a lavorare a Milano nel dopoguerra, negli anni 50. Siccome io sono della classe del 40, ero l'ultimo, aiutavo la mamma a fare le faccende così, e il piatto, quello che costava meno, era il baccalà. Dopo io non so la tecnica, loro adesso i tecnici hanno detto il baccalà di questo, io parlo di baccalà e basta. Bene, quello e che si comprava al mercato. Una scala esterna, sì? Per salire nelle stanze di sopra a dormire, quelle scale lì di pietra grezza, no? Certo. Si metteva sotto una tavola di legno e mia mamma mi metteva là al gradino 2 sempre a picchiare col bastone. Ecco, questo era il modo per... Ecco, però tutto... non c'era tempo di 2 ore, 3 ore, fin quanto era tutto sfilacciato, capisce? Bene, ecco, bene. E poi lei faceva, metteva sulla sua padella, faceva il suo intingolo, metteva una gran quantità di aglio, che era il più prezioso, prezzemolo, e poi faceva la schissetta per i miei fratelli che andavano a lavorare a Milano. Angelo, lei ci ha dato un bellissimo ricordo e ci ha dato la realtà, cioè quello che era un tempo il baccalà che si comprava al mercato, si comprava dove capitava e si preparava in questa maniera. La ringrazio perché veramente ci ha dato così l'altra faccia della medaglia. Grazie Angelo, a presto. E abbiamo ricevuto questa telefonata da Bergamo, e allora andiamo a Bergamo, andiamo da Nicola Zanini dell'Osteria Vineria ai Santi, appunto di Bergamo, che in questo periodo proprio ha un menù a base di stoccafisso. Ma gli voglio chiedere, visto che lui è un grande sommelier, Nicola, hanno chiesto gli abbinamenti, visto che tu fai un menù, ci dai gli abbinamenti del vino? Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, diciamo che ci sono varie preparazioni a base di baccalà e stoccafisso. Cerchiamo di farla semplice, nel senso che prima avete parlato di un'insalata di baccalà o comunque baccalà bollito condito con un filo di olio. Secondo me è molto simpatico avere un vino veneto a base di uve garganega piuttosto che a base di uve vespaiolo. Bene. Tra l'altro sono curioso di sentire la tua opinione dopo in merito. Sì. Primi piatti, noi utilizziamo la trippa di stoccafisso, proponiamo un risotto a base di salsiccia e baccalà. Su questi piatti un po' più, diciamo, esatto, mi piace pensare alla Sicilia, mi piace pensare ai Caricante, i vini fatti con l'uva Caricante nella zona dei Monti Blei, piuttosto che magari a qualche vino della costiera amalfitana, Furore, Ravello, a base di Falanghina, Biancolella. Poi andiamo sui piatti veramente importanti, il baccalà alla Vicentina, piuttosto stoccafisso alla Vicentina, piuttosto che baccalà alla Livornese. Allora io penso già a vini rosati, a vini rossi magari leggeri, Chianti di Governo, queste cose così semplici e simpatiche. Bene, grazie Nicola, poi sentirai cosa dirò io. Ma io, cioè, su questi piatti importanti mi piace molto il Tokaj Rosso, quindi che è questo vino così veneto, sicuramente riscoperto, che si assomiglia molto, sembra per origine storica, a un vino sardo, appunto. Il gastronauta. Bene, siamo pieni di telefonate di radioascoltatori, spero di dare la parola a tutte. Sentiamo Irene da Alessandria. Buongiorno Irene. Sì, buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Io volevo portarvi un'esperienza molto curiosa che ho fatto circa 2 anni fa. È che stavo preparando una cena povera per la vigilia di Natale fatta con gli amici e cercavo una ricetta un po' antica della tradizione povera. E l'ho trovata in Liguria, è un piatto tipico della tradizione ligure antica a base di stoccafisso, è il Branda Koyun, che è bellissimo un po' per la curiosità del nome. Anche e cos'è? Nome è un piatto appunto a base di stoccafisso e il nome viene proprio dalla modalità in cui era fatto, perché era, ahimè, per lo sfortunato scelto in famiglia, che era un po', tra virgolette, lo sfigato della famiglia, che doveva brandare, quindi girare continuamente questo stoccafisso per circa 3 o 4 Bene. Ore. Divertente il nome, divertente l'analogia. Grazie Irene. Esatto, prego. Grazie. Sentiamo Gianni dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Gianni. Buongiorno signor Paolini e anche a tutti i radioascoltatori. Ecco, prima un ascoltatore che mi ha preceduto ha parlato di vino a base di uva garganega. Sì. E noi siamo a Gambellara, provincia di Vicenza, abbiamo proprio questo vino e si chiama Gambellara DOC. Sì. Direi che per il baccalà è non plus ultra, il meglio del meglio del meglio. Bene, grazie. Ovviamente per il despaiolo, grazie. Il nostro vicino di casa, diciamo. Grazie a Gianni. Sentiamo Romolo dalla provincia di Genova. Buongiorno Romolo. Sì, buongiorno. Io volevo innanzitutto dire che qui c'è una tradizione dello stoccafisso proprio ad alto livello, tant'è vero che qui si dice che lo stoccafisso nasce nell'acqua e muore nell'olio, nel senso che viene utilizzato fritto. Molto olio per la, diciamo, per fare questo stoccafisso accomodato alla Ligure. E naturalmente viene servito con dei vini nostri che sono il Vermentino, il Polpigato o anche il Cinque Terre. Sono un po' leggerini però da reggere il baccalà. Beh, comunque diciamo con lo stoccafisso accomodato vanno bene, con le olive taggiasche, patate, pinoli. Però volevo fare una domanda. Io ho assaggiato a Venezia, in una trattoria di Venezia, uno stoccafisso mantecato. Sì. E purtroppo non sono mai riuscito a ricevere la ricetta. Voglio sapere se voi eravate a conoscenza di questo stoccafisso mantecato che viene servito, è una specie di spuma mantecata nell'acqua. Guardi, è uno dei piatti più diffusi sicuramente di Venezia. Viene servita con una polentina, cioè, sì, di grano saraceno bianca. Appena fritta. Bene, grazie Romolo, perché guardi, abbiamo con noi Marco Boscarato, che si chiama Savio di Bocca della Dogale, confraternita del baccalà mantecato di Venezia. Chi meglio di lui può dare una risposta a questo? E contemporaneamente abbiamo anche Antonio Chemello, presidente del gruppo ristoratori Baccalà la Vicentina. Quindi abbiamo il tutto, insomma. Allora, Chemello, cominciamo da Boscarato, cosa vuol dire Savio di Bocca? Sì, Savio di Bocca è la qualifica che ho all'interno del Consiglio dei Savi, che è stato riformato così sulla falsariga del Consiglio di Venezia, insomma, della Repubblica Serenissima, per governare la nostra confraternita. E mi piace ricordare il mio collega amico Franco Favoretto della Trattoria Baccalà di Vino, che è altro Savio di Bocca, siamo in due, e il nostro eccellentissimo doge architetto Caprioglio. Ecco, mantecato, baccalà mantecato, che è, diciamo, una delle sicuramente specialità veneziane e dintorni. Chi non lo conosce il baccalà mantecato, ecco, ci spiega, tutti hanno chiesto cos'è il baccalà mantecato. Ci sarebbero tante cose da dire. Allora, innanzitutto è un piatto semplicissimo, anche quello, però in quanto tutte le cose semplici è un piatto nobile e anche difficile da fare bene. L'ascoltatore di prima diceva che si accompagnava una polenta di grano saraceno, è una polenta di mais in genere, che viene usata qua nelle nostre terre, o bianca oppure gialla di mais marano. E il baccalà di fatto ha come ingredienti lo stoccafisso, l'olio e poi noi diciamo l'olio di gomito, nel senso che la sua ricetta originaria era praticamente manticarlo all'interno della drangola di legno, cioè fatto come il burro, inserendo piano piano l'olio, poi aggiustando il gusto con del sale e nient'altro. E questo che è importante da ricordare è che non c'è latte, non c'è panna, non c'è farina nella ricetta originale del baccalà mantecato. Bene, grazie Boscarato. Allora passiamo la parola a Chemello, perché Chemello, appunto, come ha detto Alfredo Pelle prima, cioè è un piatto che porta un nome di una città, è veramente molto importante perché rispecchia un territorio, vero Chemello? Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Davide. Sì, il dottor Pelle, nostro collega della confraternita qui in sede a San Drigo, si è anche dimenticato di dire che è uno fra i 5 piatti scelti dalla Comunità Europea per rappresentare l'Italia. Quindi siamo in attesa dell'ufficialità, ma sono 2 anni che aspettiamo e siamo veramente molto contenti. Chemello, qual è il segreto del baccalà alla Vicentina? Ma il baccalà alla Vicentina, il segreto principale è sempre la materia prima, lo stoccafisso. Deve essere bello, bianco, e deve essere messo in bagno, sentivo prima i colleghi che parlavano. E c'è tutta una difficoltà e un'elaborazione nella preparazione, deve essere messo in bagno e battuto nella maniera giusta, e poi deve essere cucinato lentamente, con cura, e piano piano, deve, noi in Veneto diciamo pipare, deve sobbollire lentamente e soprattutto stare attenti che non si bruci, che non diventi rosso, che non si attacchi. Ci vuole esperienza e passione. Chiamello, invece voglio chiederti io una cosa, ci spieghi perché in Veneto chiamate baccalà lo stoccafisso? Beh, questa l'ho sentita prima, è una, c'è anche un nostro confratello qui da Bassano che è Otello Fabri, che sta studiando questa, non si riesce ancora a capire veramente da dove sia nato questa, questo nome. Sa cosa abbiamo risolto? Cioè, anche noi sono anni e anni che i clienti qui del ristorante vengono e chiedono: ma perché si chiama baccalà che poi è stoccafisso? Allora a un certo punto non sapevamo più che pesci pigliare e assieme alla confraternita abbiamo deciso che noi del gruppo ristoratori del Baccalà alla Vicentina, ricordo il sito internet www.baccalallavicentina.it, abbiamo deciso di chiamarlo con una C solo, proprio con il dialetto veneto, il Baccalà alla Vicentina, con una C solo. È una semplicità, ma almeno per differenziarci, per farci capire che, cioè, noi lo sbagliamo a chiamarlo da sempre, però almeno in Veneto è sempre stato chiamato così, e allora lo chiamiamo con una C solo. Bene, grazie, grazie, grazie a Chiamello. Volevo semplicemente ricordare che c'è una grande tradizione anche a Livorno, perché i livornesi sono molto terribili su questo, quindi per carità, a Livorno c'è una grandissima tradizione sul baccalà, ci sono state anche delle disfide fra vari giornalisti un po' di anni fa, quindi Livorno ha una grande tradizione, ma anche a Roma non si scherza, perché Romeo Carraccio del ristorante Agata e Romeo, addirittura in questo ristorante loro presentano un menù in cui c'è il baccalà presentato in cinque maniere, vero Romeo? Sì, ciao, buongiorno. Noi sono già diversi anni che Agata ha voluto dare una proposta significativa al baccalà, che a Roma era molto usato prima, perché prima rappresentava praticamente un cibo dei poveri, invece adesso il baccalà costa quasi come una spigola pescata a mare, una spigola di amo. E noi presentiamo il baccalà in cinque modi diversi, e in un grande piatto mettiamo la mousse di baccalà, un filetto di baccalà proprio tipico romano, fritto con la pastella, poi un baccalà alla pizzaiola col pomodoretto fresco sempre, e un baccalà ai ferri condito con capperi, olive nere, una salsa mediterranea, e poi un baccalà semplice lesso con una fettina di limone vicino e dell'olio buono. Ecco, secondo te, che sei anche un bravo sommelier, è possibile abbinare queste cinque presentazioni con un vino solo? Sì, guarda, io diciamo che già collaudato questo abbinamento, e di solito tutti me ne ringraziano, lo abbino a un pinot nero dell'Alto Adige, che ci sta proprio da Dio, cioè si sposa benissimo con questi cinque modi. Bene, grazie, grazie a Romeo Carraccio di Romeo ed Agata di Roma. Anch'io sono molto d'accordo, e ritorno sul vino, che molti piatti a base di baccalà o di stoccafisso vadano abbinati anche con il pinot nero oltre che col tocai rosso. Bene, siamo arrivati alla conclusione, forse avete voglia ora di mangiare il baccalà o lo stoccafisso, cari gastronauti, speriamo di sì, speriamo magari che lo troviate, è anche ottimo. Avete sentito che ci sono molti ristoranti addirittura con un menù tutto a base di baccalà. Bene, io vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento domani alle 10 per risentire la replica di questa trasmissione, alle 12.15 con il wine bar del gastronauta, e poi ogni giorno alle 18 con la pillola, appunto, sempre del gastronauta. A presto da Davide Paolini. E quindi poi continueremo a parlarne, perché dalla regia mi fanno segno di passare la linea alla viabilità. Torneremo fra poco, rimanete con noi. E ora passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Io prego la Dragotto di rimanere in linea, intanto poi torneremo da lei. Ora passo la voce alla viabilità e Dragotto si prepari a spiegarci la parola baccalà. A fra poco.